Milano, Bulgaria, Palmonare ancora, binario 8. Diretto per Mantovano, Verona, via Modena, binario 5, piazzale ovest. Diretto per Mantovano, Verona, via Modena, binario 5, piazzale ovest. Locale per Udine, binario 10, locale per Udine, binario 10. C'era un contatto, l'ottavo è quello con il generatore. No, il settimo. L'ottavo è il dinamico, sì. Comunque le altre variate, non è che... E gli altri sono molto attenti. Grazie. anche una fetta di famosa. Thank you. Thank you. Thank you. Sotto l'inizio ci vanno a sconfondere.

Ci dà una birra? Ci dà una birra? Ci dà una birra? The hat's gone. Double. I have to get it though. See, a photo of Flair, a full Flair on my way, you see? Five? Who did you stole it? No, he'll bring it back. Oh, yeah. Oui, ça va. No. Is it good? Oui, oui, oui. We know each other. Do you know Anella Volta? Yes, yes, I know. Andare a casa, eh? Posso fare? Posso fare? Di qui lontano. Dove? Thank you. tutti i locali.